Europa 24. We meet again in this press room today in the shadow of the tragic events in Berlin on Monday night. Un saluto da Gigi Donnelly. Quello che sentite sullo sfondo è Dimitri Avramopoulos, commissario europeo, parla del giro di vite nella lotta al terrorismo e ai migranti irregolari che la Commissione appunto propone rafforzando la banca dati di Schengen, quello che si chiama Schengen Information System, il SIS, introducendo l'obbligo di allerta in caso di crimini legati al terrorismo, di nuove categorie di allarme per persone sconosciute e ricercate e per i rimpatri dei migranti irregolari, un tema molto delicato, molto attuale in queste ore. Appunto l'annuncio del commissario Avramopoulos, Europol, Eurojust e la nuova Guardia di Frontiera, Guardia Costa UE, avranno diritto d'accesso a questo database. Oggi ha detto Avramopoulos, facciamo un passo in avanti ulteriore con le nostre proposte per rafforzare appunto il SIS. Tutto questo per combattere meglio il terrorismo, l'immigrazione irregolare, la criminalità frontaliera. La lotta al terrorismo, ha detto il commissario UE agli affari interni, non è una sfida europea ma globale, quindi siamo uniti ai nostri alleati, quindi restare uniti, ma attenzione, ha detto, la nostra sicurezza non deve avvenire a spese della nostra apertura e tolleranza, dobbiamo restare una società aperta e ospitale. Questo naturalmente sui grandi temi, insomma, dell'attualità. Avete sentito gli aggiornamenti di ora in ora che in queste ore ci portano in Germania, ma che legano in una catena di eventi, di passaggi, l'Europa intera. Adesso cambiamo completamente tema, andiamo su qualcosa di più rilassante ma importante, visto che credo che tocchi molti di noi quasi ogni giorno, ed è il decreto sull'etichettatura obbligatoria del grano per la pasta, una richiesta che è stata avanzata da tempo dai produttori, una richiesta che è stata anche al centro di un vivace dibattito. Sentiamo. La pasta arriva sul tavolo della Commissione europea, o meglio l'etichetta, dopo l'accordo interministeriale tra politica agricola e sviluppo economico, è stato inviato a Bruxelles lo schema del decreto che introduce sulle confezioni l'indicazione obbligatoria dell'origine della filiera del grano e della pasta in Italia, come è stato già fatto per le produzioni lattiero-casearie. Si avvia così formalmente l'iter autorizzativo europeo, che potrebbe concludersi a novembre, e qui si apre il dibattito, ma la qualità della pasta dipende davvero dall'origine? Secondo Riccardo Felicetti, presidente dei pastai di Aidepi, non ci sono frontiere per questa materia prima. La qualità della pasta dipende da molti fattori. Uno è sicuramente la qualità del grano, ma la qualità del grano non dipende dalla sua provenienza, dipende dalla genetica del grano e dipende dalla capacità dell'agricoltore di fare del grano buono, oltre che dalla terra. In Italia abbiamo poco grano perché assolve soltanto al 70% delle necessità dei pastifici italiani, il che significa che deve essere miscelato anche con grano straniero. Non è che i pastifici siano contrari all'etichettatura, ma quello che ci spiace è che si dica che il grano straniero è cattivo, è tutto sano e serve per fare in modo di migliorare la qualità del grano italiano. Per i coltivatori, afferma invece Coldiretti, si valorizzano le materie prime con l'etichetta in cui si dovrebbero leggere queste diciture: il nome del paese nel quale il grano viene coltivato e il nome del paese di molitura in cui il grano è stato macinato. E l'ultima parola toccherà al consumatore. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. È tutto per questo appuntamento con l'Europa. Adesso naturalmente riprendiamo a parlare di questa giornata di campionato a cavallo della settimana e come sempre siete tutti convocati. A domani. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.